cambio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambio. Canale 10. Come non facciamo lavoro in questi giorni, sto lavorando male, vi auguro buona festa a tutti gli ascoltatori che non mi rispondono mai. Ciao a tutti. Ora. CQ canale 10. Gianfranco, mi copi? Sì. Adesso sì, tu mi ascolti? Scappa, hai chiamato tu un minuto fa qua? Sì, più o meno all'incirca sì. Dimmi se mi stai ascoltando, che sto trovando un apparecchio, devo essere, anzi non devo essere, sono a potenza ultra bassa. Sì, K, allora io sto usando uno smitter a cristalli liquidi e il segnale 9. Sì, la radio come ti sembra? Passabile, buonina, parla lungo. Non so, è un microfono da tavolo, non so neanche se ci sia un coso su questo apparecchio, è un po' difficile da gestire. Accendiamo anche, ecco, così forse con me. Tu stai arrivando come al solito, sempre bene. Sì, la radio discreta, forse ti ho sentito con modulazioni un po' più pulite, però non è male. Io sto utilizzando adesso non 4 watt, ma saranno 10-12 utili, penso. Sto usando un CRT 9009 al momento. Sì, e questo lo devo aprire perché c'è il microfono durissimo, è un microfono da tavolo che non ho mai, che uso raramente, però i tasti sicuramente vorrebbero più sensibili. E niente, la potenza qua non me ne dà, dovrei essere intorno ai 10 mW. Sì, 10 milliwatt mi segna. Sì, io mi ricordo, avevo fatto una prova anch'io, avevo messo un apparato a un watt tanto tempo fa e poi avevo usato quel riduttore di potenza della ZG, l'HP Reducer della ZG, e me la riduceva a un decimo, quindi saranno stati sì e no 100 milliwatt. E che poi con tutto il cavo che ho io saranno in antenna, se ne saranno arrivati molti meno, però parlavo in tutta Sassari e dintorni, non c'era problema alcuno. Sì, ho capo, ecco, ho aumentato al massimo, perché mi dà così? Praticamente un fatto e mezzo, non so se la radio abbia cambiato, solamente non trovo l'aggeggio per... o forse neanche ne ha questo. Qua chi spara a destra, chi spara manca, allora. Sì, allora adesso sei, mi hai acceso il LED del 9 più 10, più 10, naturalmente si svincherà il LED o LCD che sia, ma sono un contentino, dai, però si vede la differenza della... Poi noi siamo abbastanza a tiro di balla, dovremmo essere abbastanza liberi. Ok, ho sentito, hai chiamato sopra, si è sentita anche una musichetta prima, come un qualcosa che si inizializzava, non so, un apparato, sai, un cicalino di benvenuto di qualche apparato, e poi ho sentito una tua chiamata 525, ma eri tu? Sì, è l'accesso alla ripetizione quello, siccome può insomma una cosa un pochettino complicata, permette di gestire le chiamate a grandissima distanza, veramente a grande distanza. Sugli altri canali non ci capivo niente davvero, se ero in HF o meno, perché dopo che mi è sentito ho fatto un piccolo giro, ma ci sono americani 9, 10, è una cosa da paura, Sì, ho sentito qualcosina, io per sicurezza ho messo l'autosquelch, che ha un valore predefinito di non so quanto, in modo da silenziare un po' di roba. Va bene, vediamo se c'è qualcun altro sul canale 10 oggi, avanti. Buonasera, Natalino Alfa 1 da questa parte, ciao Marco e ciao Gianfranco. Ciao Natalino, ben entrato. Allora, non so se dipenda da me, ma sentivo l'ondulazione come un po' strappata o strana. Prova a parlare un po'. Prova a vedere, 1, 2, 3, sono un po' rauco e c'ho anche un orecchio che mi fa male. No, Natalino, la sento strana però, è come se fosse quasi scostata di frequenza, il segnale poi è più basso del normale, sì, mi accendi il LED, aspetta che abbasso, se no mi accendi il LED del più 20 solo, poi sei sparito di botto, controlla qualcosa lì. Io cosa devo controllare? Sono con 2 watt. Sei molto gentile, sempre come modulo io, capito, non ho toccato nulla. No, forse era rumori di fondo, che ne so, rumori di fondo oppure l'apparato freddo, dipende quale stai usando, va bene, adesso sembra un pochino meglio, magari dipende da me, non so più, va bene. Quindi Gianfranco, quell'apparato è uno dei soliti, diciamo, a dir poco originali, dai, non è un volgare baracchino, ecco, né un HF, è normale. No, assolutamente, non è roba, insomma, è molto, molto, molto piccolo, tutto digitale, ma non è roba, insomma, da giocare, ecco. Ogni tanto mi dimentico come funziona, quindi dovevo per forza tirare fuori. Adesso al massimo della potenza, tutti positivi, però c'è un quattro. Ciao Natalino, beato chi ti sente. Ogni tanto passo sotto casa tua, ma non ti sento mai. Vabbè che passo intorno alle 7:15, però non ti sento mai. Se tu non mi chiami non mi puoi sentire, capito? Mi ho comprato un giocattolino, Gianfra, il Nano VNA, mi ho comprato, e ho imparato a tararlo e tutto, capito? Ma non è uno strumento per il controllo, ma come si chiama? Anch'io, come viene il nome, si chiama, vabbè, quando me lo ricordo te lo dico, comunque una scatoletta che fa un po' tutto. Poi mi sto aspettando dei componenti per costruirmi un bel carico fittizio. Bravo Natalino, bravo, quindi mi fai capire che stai, ma stai ancora studiando, stai studiando? O hai perduto la speranza? No, non sto studiando assolutamente, no. Mi sono disgustato, dai, non faccio le mie cose, tranquillo, mi sto qua, va bene anche così. Ah, ho capito, beh sì, ovviamente, o anche, come si diceva, quello che si accontenta vuole, tanto su, a parte trasmissioni particolari, non c'è niente, proprio 3 gatti, forse qualcuno anche morto, ce ne sono 2, ma quindi vabbè, lasciamo perdere, è meglio, è tutto lì. tu invece cosa ci racconti? E che vi racconto? La solita cosa, la solita vita, tutto uguale tutti i giorni. Adesso arrivano anche le feste, domani notte quindi è vigilia. No, non domani notte, non lo domani, oggi cos'è? 22 o 23? Esce quindi parenti serpenti, là. Buon viso, cattivo gioco, sorrisini forzati, solite cose, dai, tipiche di ogni Natale. Insomma, la solita ipocrisia che chiunque farebbe a meno, dai. Perché è Natale, ragazzi. Prima c'avevamo una guerra, adesso ne abbiamo pure due. Quindi, speriamo che non arrivi anche la terza. Ok. Mannaggia, c'ho la roba, non so neanche com'è. Oh, lo sai che non mi ricordo più come si usa. Quindi questa qua è così. Per farla colà, come si fa? È tutto macello. Non mi ricordavo neanche che avesse un solo vatto questa affare. Stazionaria non ne ha, però c'è un vatto. Comunque la cosa, come si chiama lì, la Game Master, ieri ha dato spettacolo, il vento me ne ha portato via l'antenna dalla televisione con un palo grosso, però lei è sempre lì, sempre lì, si piega tutta, proprio ho detto, questa è la volta che la spezza, ma che si flette ma non si spezza. E la mia altrettanto, Andrà. Comunque sta arrivando 9:15 qua, di brutto. Io sento invece che col televisore è a manetta, ma è proprio a manetta, si sente fortissimo. Sì, sto usando, ripeto, neanche un watt sta arrivando, perché non arriva neanche un watt? 12 volte, vabbè, se attacco il coso, forse è meglio, no. È un programma, uno di quelli per cui RPE. No, diciamo che uno da spalla, te lo metti addosso, capito? C'è il suo zaino, lo metti addosso, batteria. Da tutte le parti, se vuoi ti do anche un'idea, chissà che non arrivi più forte. Guarda, adesso trasmetto in un altro modo, sicuramente non capisci una mazza, però guarda, si è sentita la portante e basta. Ma cos'è il 705 per caso? Diciamo che ce ne compri un paio di 705, forse anche 10-15. Il cavolo. Ci sarà qualche AN/PRC qualcosa? Sì, Marco ha capito al volo. Al mode va da giù da su a su. Ma sarà roba tipo della Esco, chi le vendeva anche a parte la Esco, quell'altro radiomercato mi pare, e trovi tante cose belle, però appunto sono delle funzioni speciali, vanno saputo usare con criterio, se non si sbagli chissà dove si va a trasmettere. Ma Gianfranco già preparato per queste cose, le sa due strisce. Beh, due quaderni a quadretti pure. Perché non funziona la stessa? Sto facendo un casino che non te ne dico un attimo. Cata, me devo piazzare, cioè me devo adattare l'MC60 al 725. Ci sono anche la. Mi devo adattare. Cosa rifai? Uno spezzone intermedio? In modo da non dover in modo da usarlo su tutti gli apparati, il microfono. No, ce l'ho già lo spezzone, era adattato per il 440, mi ha dato quel 440, non ce l'ho più l'attacco al 725. No, buttale via. Capito, lo spezzone ce l'ho già, il cavo originale non lo toccano. Magari mi sale in testa di prendermi uno di quelli con la K e quello già. Ahia, proviamo un attimo. Vediamo dov'è qua. RF gain. Aspetta. Proviamo qua i 2 watt qua se funzionano. Poi vi spiego il perché. Ditemi se c'è stata un peggioramento della modulazione, tipo un abbassamento o roba del genere. Sono con la potenza minima, non so quanto sia, ma potrebbe essere 2 watt. Ah, secondo me stai andando bene. Non so perché te lo chiedo, perché questi apparati CRT, almeno questo, ha 2 regolazioni della potenza, della modulazione, e un'ottimizzazione della modulazione. Uno si fa con la potenza alta e uno si fa con la potenza bassa, perché c'era un apparato di questi, non ricordo se il 5000, vabbè, 5.5, non so quanti 5 abbia, o il 7009, che quando lo mettevi alla potenza minima perdevamo il tuo radio, scendeva anche la radio. Praticamente dovevi aprirgli 2 trimmer, uno per la potenza alta, per la modulazione, e uno per la modulazione con la potenza bassa, capito? È un'ottimizzazione che gli hanno fatto, però se mi dite che va bene, lo lascio così. Per me va bene. No, io c'ho quella mitone, sto usando quello lì, e c'è solo una regolazione. Non lo so, e se ne abbia una Nathalie, potrebbe essere anche quello. Io questa cosa me la ricordo, mi ricordo iPower, AM Mod o come si chiamava, e Low Power AM Mod da qualche manuale di servizio, però siccome ne ho tanti e sono tutti uguali, quasi più uguali separati, non mi ricordo qual era quello che aveva particolarmente questa impostazione da fare. Vabbè, poi non è un problema a uscire, c'è lo stesso. K, vediamo se c'è Gianfranco ancora. Sì, ci sono, ma non riesco a far funzionare la presa, perché c'è qua. Non capisco il perché. Che stava la funzione dopo. Niente, non va. Ma quale funzione non riesci a fare andare? Diciamo di amplificazione, questo è troppo basso, che ne so, troppo bassa la potenza, non ce la fa. Non saprei, vabbè, la modulazione dopo tutto, vabbè, sai cos'è, perché ero un po' titubante, perché questo apparato che sto usando adesso credo che abbia quell'altoparlante che, vabbè, è un po' più piccolo, ma ha quel cono in plastica anziché in quel materiale tipo cartone. C'è tutte le sento le modulazioni più secche, diverse dalla... Adesso quello dico cono nego, però questo dovrebbe avere quell'altoparlante lì, col cono mi pare sia trasparente in materiale plastico, e quindi, capito, ogni tanto lo è... cioè, come cambi il baracchino, ti cambia la ricezione degli altri, in poche parole, ecco. Sì, c'è moltissima propagazione su tutti i cosi, li sento, sono americani, da tutte le parti, c'è una propagazione tremenda, sento fortissimi tra l'altro, niente, non ci riesco, che cosa è successo? Qua arrivano bene spesso sul 6, sull'11, quelli che fanno tipo il Super Bowl, cioè stanno sempre a parlare, non so, di cosa, e sempre poi fanno quel finale col bye bye bye, praticamente, boh, tipo camionisti, Super Bowl, quello che è, dai. Niente, non sta neanche aumentando la potenza. Boh, strano. Ma non per nascerlo, sì, non per nascerlo. Poi non ci capisco più niente neanche io di questa cosa. Nathalie, riuscimmo infine a rivedere le stelle. Non ho capito, scusa, che non stavo seguendo. Ho abbassato anche la radio perché sennò mi dice cosa che sente la televisione a manetta, e poi è bassissima. Però questo è MB più 4 è disgraziato. Sì, ma infatti te l'hanno anche detto, certe volte con la TV è meglio usare il mic da palmo, almeno sentiamo la tua voce e buh, e non sentiamo la TV, il cane, il traffico, Concetta Bozzi tirandoti il mattarello a schiena. E infatti non so dove è finito, lo devo cercare il mic suo e userò quello da palmo. Questo qui lo userò da combattimento. Intanto un sacco di collegamenti meglio fatti quest'anno, alla faccia di chi non vuole. Io ci ho perso la fantasia un po', però potenzialmente ci potrebbe, dai. Piuttosto volevo sapere, vediamo se Gianfranco ce lo ricorda, dovevi guardare su internet, ma noi siamo arrivati al picco un decennale solare o ci stiamo allontanando o ci stiamo ancora arrivando? Che ne so, io non sono più informato di nulla, guarda. Gianfranco magari sarà più informato. Prima già ero informato su tutto, adesso ho lasciato perdere un po'. Vediamo un po'. Quanto è adesso? Adesso 10. 10 qua. Vabbè, sono passato su un altro apparecchio. Cosa volevo dire? Non sono informato neanche io, non essendo un DXR, so solo che sento mezzo pianeta, in tutti i modi, in tutti i modi. Segnali strani, russi a go-go, russi in chiaro, russi criptati, russi che russano. Ammesso che siamo russi e non, perché poi tutti quei linguaggi sono tutti uguali, cubani, quando non c'è propagazione, se uno si sente lo stesso, anche quando non si dovrebbero sentire, boh. Non ci sto un po' capendo niente. Ditemi se così va bene o se fa schifo lo stesso. Beh, diciamo che è leggermente più soft la modulazione, più soft, più pacata, dai. L'importante è che si capisca, perché non mi ricordo neanche che com'era il mic gain. C'era il refrain gain qua, il mic gain qual è? Oh, la vecchiaia, poca carogna, aspetta che aumenta un po', mic 49 c'è scritto, forse è aumentata un pochino, almeno so. Quanta roba da è così, vabbè. Sì, sembra aumentata un pochino. Va bene, vediamo il livello di calore dell'apparato, e questo scalda a bestia, c'è come difetto. Allora, sta scaldando, magari non a bestia perché siamo in inverno, però siamo sulla buona strada. E anche se lo metti al minimo della potenza, è particolare. Sì, c'ha le alette di raffreddamento un po' grossolane, però scalda parecchio questo. Potevano mettere una ventola di fabbrica, con di fabbrica gli sarebbe costato poco e niente, ma non l'hanno messa, vabbè, non fa niente. Evidentemente volevano risparmiare. Volevo risparmiare, ma poi l'importante è che non abbia stazionare. Ecco, adesso guarda di aumentare, forse troppo forte. Aspetta che diminuisca un po'. No, adesso sono 5 watt. 5 watt, voglio vedere se qui funziona la prezza. Sì, comunque è nata lì, ho capito che stai facendo ascolto, almeno quello. Ammesso che riesci ad ascoltare qualcosa. No, non le sto facendo, neanche ascolto sto facendo, non ho piazzato nulla. Sul tetto ho piazzato solo l'antenna TV nuova e la Game Master, basta, non c'ho altro. Quindi non sto facendo manco ascolto di là dove ascoltavo sempre. Mica che è scattato, mia. Aspetta che se non brucio qualche cosa. Adesso è successo qualche cosa. Sì, è successo. 9 più 20, radio lievemente satura. Sì, infatti bisogna bisogna aumentare, cioè bisogna diminuire un po' quanto si usa questa cosa. È un microfono normale, è un microfono da palmo. Sì, e quindi funziona anche la potenza. Allora, per le stazionarie qua mi segna 1.4, no? Con questo rosmetro interno, però io so che è per eccesso, cioè segnano sempre di più del normale, ma gira gira è meglio così, perché se poi le stazionarie vere almeno le vedi inesorabilmente, te le segna alte. K. Non ho voglia di pigliare il dive e misurarle, non si sa mai qua tra operai sul tetto, cosa può, magari appoggiano barre di ferro verticali vicino all'antenna, cominciano a fare interferenza. Se ti dico cosa c'era dentro quel filtro anti-TVI, Marco, ti metti a ridere. Quale filtro? Quello che avevo io. ZG? Sì, un'induttanza di condensatori, boh, non c'è altro. Sì, perché quello serve, ma cos'era? Tipo pi greco il filtro, classico. Ti sto dicendo che c'era dentro un'induttanza e due condensatori, basta, non c'è altro. Vabbè, ma io non sapendo come è fatto a pi greco, l'ho sentito nominare, ma magari è quello, non so se sia quello, il cosiddetto. Invece in quello della RM Italy, c'è, presumo ci sia la stessa cosa, cioè vedo una bobinetta, un avvolgimento in rame, e dei condensatori però moltiplicato varie volte. Infatti di solito quelli ZG danno un'attenuazione di 15-20 decibel delle armoniche, questo le dà roba di 60, loro dicono anche 80, ma 80 mi sembra difficile, capito? E vabbè. E quello è a celle, quello che è tu. Questo invece c'è una basetta con un'induttanza e due condensatori, non serve a nulla praticamente. Ah, per noi è buio totale, non saprei, magari è proprio quello che serve, cioè non credo che ci sia chissà cosa, elettronica e cosa. Poi figurati, se è roba ZG non ne parliamo, sono veramente cose fatte veramente in economia. E infatti, chi ha dell'aria l'ho visto, ha detto che le interessa. Ma vabbè, che vuoi che ti dica? Come se ce la fai? Sì, a parole, però tanto non ne uso. L'ho smontato, che mi serviva la scatolina. Quindi si diventa. Ehi, l'ho riciclato, ehi. Vieni, vai Gianfranco. Sì. Quindi a metà. Poco strano che funzioni su questo e non sull'altro. Mistero. Quanto sta assorbendo? Poco. Comunque è importante che la radio sia chiara, poi tutto l'altro è relativo. Ma se sono i gemelli? No, questo è un povero presidente, niente di particolare. Comunque, cavolo, qua c'è, io sono scalzo praticamente, cioè le infradito. C'è un pigiama peraltro sottile, mi sto congelando, adesso mi metto un po' di roba addosso. Non sono uscito, quindi sono in versione casalinga nel vestito, però c'è freddo, qui qua arrivano gli spifferi un po' di come passa il cavo tra le ante della finestra, lì alla base c'è sempre lo spiraglino, non ho ancora bucato il muro, volevo aspettare che questa ondata di barbari passasse e finisce i lavori qua prima di bucare. Luca, sei tu? Certo, non fa neanche con te, non fa neanche con te, vabbè. Luca, comportatemi, non so se mi senti. Sì, sì, un 9+15 più o meno, perché si accende il LED del 10 e del 20, che però si spegne momentaneamente, quindi un 9+15. Portatile con che antenna però? Vabbè, l'esterna. Lievemente saturo è un pochino, lievemente. Saturo, boh, 1, 2, 3, prova. Diciamo che la modulazione non è limpidissima, magari il tipo di portatile. Che portatile è? Alan, quelli di una volta però. Non ho copiato la marca. Alan. Poi, prima, premi, dopo parla, che lo squel si chiude un po' in fretta qua. Alan. Alan, ho capito. No, perché avevo avuto io degli Intech ultima maniera, quelli economici che facevano schifo veramente. Uscivano bassi, brutti di modulazione, muffled, proprio brutti brutti. Quello almeno è uno della vecchia guardia. E ho messo male, tutto cancellato, la sigla. Appaga, appaga, riprendi, riprendi, che sono qui a stampare, se no magari si sente la stampante. Cosa hai paura di fare rientro della stampante? Ti vuoi alla stampante? Poi mi fai caratteri storti. Sì, ogni tanto vedo qualche video, Luca, non rispondo, perché se dovessi rispondere ogni singolo video sarei non solo tuo ma anche gli altri, dovresti stare sempre bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, sempre con lo smartphone in mano. Comunque ho visto che già sai, si organizzano molto bene, dai. Sì, mi dato la comunque dove metterla, se no prima era toccato toglierla, capito, l'armadio, diciamo così, metterla sul mobile, stampare, poi rimetterla a posto, adesso ho trovato una collocazione finale, così che quando c'è la stampa è stampo. Cappa, va bene. Vediamo, scegli Natalino, Gianfranco, qualcuno ascolto se vuole entrare. Io so, devo staccare un attimo perché mi sto congelando. Mi devo mettere almeno i calzettoni e una felpa più grossa. Gianfranco c'è ancora? Sì, ci sono ancora. Ma ne approfitto per salutarvi perché provo a passare su. E poi devo anche sistemarmi questo col microfono che è un blu, che strano. Vabbè, buona serata, mi ha fatto piacere ascoltarvi, vi auguro che non ci sentiamo un buon Natale e un buon fine d'anno. Dai, ciao Natalino, ciao Marco, ciao Luca e buon proseguimento. Riprendi Natale. Cappa, ciao Gianfranco, auguroni, se non ci sentiamo magari fatti sentire più spesso se hai tempo. Mi ha fatto piacere ascoltarti. Riprendi Marco, per i saluti a Gianfranco. Cappa, ciao Gianfranco, buon proseguimento di serata. Io naturalmente, vabbè, auguri, io li faccio poi che uno lo festeggia o meno. Io naturalmente la faccio un po' più tragica, no? Quando parlo di parenti, serpenti e Natale, però andiamo bene o male d'accordo, che più che meno, però è palloso, diciamo, il Natale in famiglia è palloso, non è più quando, come quando si è bambini, si è più felice, eccetera, così è tutto un tirare avanti, l'ho sempre detto, va bene, di nuovo, buona serata e buon tutto, dai, sentiamo. E tu Natali, vabbè, c'hai ospiti a Natale o siete soli soli? No, c'ho ospiti. Ah, bene, almeno fate greffa, vi divertite di più, cioè no, mamma mia. È un po' così. Poi dipende se è vigilia, se è il giorno di Natale, capito? E anche alla vigilia c'è gente, sia a la vigilia che a Natale, capito? Almeno così si passa un po' più di tempo in compagnia. KK. E voi state entrando di sera, non so, perché sempre alla fine non ve mai dice uno. Io ho ripreso perché ho sentito una chiamata di Gianfranco, era acceso qua e ho provato a rispondere e in effetti era lui. Però per il resto muto. Muto al 23, muto al 12, muto qua, boh. Io lo stesso sto entrando poco, mi sto divertendo a fare altra cosa, capito? Molte volte spento qua, proprio perché no, quando vedo che non c'è nessuno cosa stai lì a fare. Non lo so neanche io se stanno entrando la gente. E magari Gianni si sta dedicando più al canto. L'altro giorno mi è arrivata quella pubblicità di quell'applicazione Star, non so com'era, Star della canzone, deve essere quell'applicazione che usa anche lui, capito? E va bene, c'ha diversi hobby lui e magari vede che non c'è nessuno e non c'entra, capito? cosa vuoi ti dica? Mi piace cantare e canti. Adesso riprendo ad andarmene al campo, io tanto non so più cosa va. Mi hanno detto che devo camminare, quindi anche portandomi vado almeno coltivo i rubi. E io sentono dei bip come dei lischicetti, kish kish, che roba è? Lo sai che mi hanno morsicato attorno al cane, quello che l'aveva morsicato la prima volta. Oh, male gli ha fatto. Eh sì, gli ha fatto male, sì, l'ha bucato in due posti, l'ha bucato al petto e vicino al polmone, ha salvato la pettorina qua. Anche questa volta è sempre con mia moglie, sempre, se non avevamo ce l'aveva mia moglie e sta facendo dal vicolo qua, infatti l'ho minacciato, se ti vedo in corso di iniziato lo sparo il cane, mi tolgo la pistoletta e lo sparo, perché ti tento apposta, amica giunta, che c'è un delinquente. Alza la meraviglia puntiglia, prenditi la puntiglia tu, io ti sto dicendo che te lo sparo e te lo ammazzo, mi sta tranquillo che non lo sbaglio. Mamma mia, ascolta, ma cos'era, tipo cane tipico senza guinzaglio, magari di razze un po' aggressive? Aggressivo, si ammiglia sempre con un canino, anzi, per poco ne, per poco ammazza il cagnolino dell'amica di mia moglie. È aggressivo, può uccidere anche, può attaccare anche delle persone, infatti l'ho denunciato. Sono andato ai vigili urbani e poi anche ho parlato con le guardie cozzofile, glielo devono prendere questo cane, deve essere pure senza microchippi. Adesso era al guinzaglio, però era senza museruola, è un cane enorme, dice. Io non lo conosco ancora questo cane, perché non mi vogliono dire chi è, se non vado e glielo tiro lì, mi dov'è? Cazzo, è buon cassai io. Beh, aspetta, fermo. Guarda quel difettino ancora fa. Porcaccia la miseria, oh. Meno male che ho bloccato la, tutto, ho bloccato l'apparato, no? E mi fa errore, se ne va sul canale sotto. Per fortuna ho bloccato l'apparato che non puoi cambiare canale, mi. E ti dicevo, ma la razza di questo cane cos'è, un pitbull, un rottweiler, che cane è? Un cane grosso, è un cane grande, tipo cane corso. E praticamente per poco se lo mangia, il mio è piccolino, è stata la prima volta, 1500 euro di cure mi è costato e tutta l'estate ho perso e adesso me l'ha tornata a morsicciare. Non ti far vedere più qua, mi non c'è più passare qua, perché se passi qua te lo sparo il cane e vi ruvozzo, se lo trovo il cane qua è fottito. Ma i casini, poi immagini dei casini legali, anni di avvocati. Invece, come sarebbe giusto, le autorità dovrebbero togliergli il cane, se questo è un lazzarone già di suo, il cane bisogna toglierlo, se è pericoloso, brutto dirlo, ma andrebbe soppresso. Se le fa di continuo questo cane, non lo so. Però siccome le certe volte le cose latitano, le autorità si passano, le scaricano il barile l'uno all'altro, no? Chiama la polizia, dice che lo devono fare Baraccelli, Baraccelli magari vanno a dire che lo deve fare la zoofila dice che lo deve fare un altro e nessuno si piglia mai responsabilità. E quello continua a fare danni, a zannare magari gente. Immagina se un cane del genere prende uno alla gola, e come sente il sangue, mi, che si eccita, non molla, e come gliele apri le mandibole? Col piede di porco come gliele devi aprire? Forse è una roba tipo cane corso, è enorme, è uno yeti, non è un cane. E infatti, è pericoloso. Se invece di prendere il mio cane becca un bambino, una bambina, non lo so io cosa succede. E poi a parte il cane bisognerebbe dare una strigliata in stile Bolzanetto al padrone, capito? In stile G8 di Genova, ma una bella strigliata, mi. capito. Questo la genovese bisogna fare, a vedere se la capisce. E quelli della zoofila sono andati a casa sua, no? Però in casa sua non ci possono entrare perché ci vuole il mandato, e questo è un delinquente, hai capito? Ti sto dicendo, non ci passi più qua, perché se passa qua non me ne sbatte nulla. Nel frattempo che parlavi stavo notando l'apparecchio quanto sta scaldando dietro. È fatto così questo apparato, l'hanno studiato, c'è un finale strano, ambiguo, una sigla, roba grossa, dai. Però se poi un finale sì che pompa, rende, ma non dissipa nemmeno bene, gli metto la ventola adesso, la tolgo dal linearetto. E infatti mettigli una ventolina, perché non deve scaldare così molto, sennò può farsi del finale. Sì, per il momento. Finale, oggi ormai si sciolgono le saldature, vabbè. Non puoi tenere la mano sulle alette di raffreddamento, sono bollenti. No, no, metti una ventolina che è meglio, Marco. Cazzo, mi ha fatto qualcosa per mettere il dipolo, manco quello mezzo, perché per l'immagine, gli ho fatto il balun, l'ho fatto così bene che sembra comprato, e l'ho abbandonato, ma vaffanguala, guarda. Se quando ho piazzato quell'antenna multibanda, subito mi hanno detto che disturbavo, io non la stavo neanche usando, non per trasmetterla, la volevo usare per ricevere e basta. Infatti mi hanno disgustato e allora ne l'ho tolta, proprio per non cozzare, perché sennò dopo divento cattivo. Infatti non mi devono dire più nulla, perché se mi dicono qualcosa guai. Adesso è sul tetto l'antenna, va bene, ne ho messo l'antenna nuova TV, quindi ne ho tolto anche la X30 che avevo, tutto ne ho tolto, ci ho messo solo l'antenna di qua e quella della TV sul palo, basta, non c'è altro, proprio per non cozzare con nessuno, perché ti rompono le scatole. Infatti mi volevo prendere il 7003, cosa dirubiglia fa, se non lo puoi usare, cosa, neanche per ascoltare, cosa me lo prendevo a fare. Eia, nel frattempo ho sbagliato il microfono, è andata lì, ho premuto l'altro microfono dell'apparato che per fortuna era spento, e ti dicevo, ho poggiato una ventolina dietro, sai quelle da 10 cm classiche del computer, così alimentatori, poggiata sulle alette e già sta raffreddando un bel, senza nemmeno mettere l'elastico come lo mettevo altre volte, no? Siccome è poggiato bene l'apparato, sta aspirando l'aria, sì, ad aspirare è messo, ok, e vedrai che me la raffredda in un attimo. E poi che altro dire, boh. E quindi, vabbè, stavamo parlando di quello del cane, purtroppo certi cani, cioè la colpa del comportamento è quasi sempre dei padroni, poi ci possono essere un po' cani un po' più predisposti per l'aggressività, credo che sia innegabile quello, perché a sentire così, no, sono bravi, sì, ogni tanto però si portano via qualche cagnolino o portano via la faccia a qualcuno, però sono bravi, capito? No, qualche cosa genetica c'è di qualche cane più aggressivo di altri, però il padrone fa, diciamo, il 90% del lavoro, anche di più. Ma io se avessi avuto un pitbull, ti sto dicendo, sarebbe stato bravo come questo, non avrebbe rotto le scatole a nessuno, perché il padrone che lo educa male. E poi si è notato certi randaggi, hanno quei cani aggressivi, lo usano come difesa, capito, in caso di, che ne so, sai, certi spacciatorini, hanno il cane appresso, c'è qualcuno che rompe le scatole per qualcosa inerente ai loro traffici, è come se avessero un'arma, capito, a portata di mano. E vabbè. L'ultima volta che l'hanno arrestato, questo stava dando la droga ai bambini, ai giardini, dimmi tu. Cazzo, gente a tenere libera. Quello ci avrebbe buttato la chiave in mare. Però i bambini, tra virgolette, bambini che chiedendo la droga la volevano, capito? Non è che cioè loro vendono perché c'è la gente che la compra la roba, capito? Bisognerebbe educare i figli a non comprarsi canne, a non comprarsi altre porcherie, a non bere possibilmente anche. Soprattutto a non bere. E vabbè, le trasgressioni iniziano da quello, no? Ogni tanto sì, cosa vuoi che sia? Un bicchiere di birra, cosa vuoi che sia? Una bottiglia di birra, cosa vuoi che sia? Una cassa di birra, cosa vuoi che sia? Dice, tanto siamo abituati. E poi passi a magari ad altro. Vedi, Natalino ha iniziato così, poi è diventato cuocuomane lì, con la polverina per il naso. E infatti io sono cuocuomane. Siccome non costa niente, mi proprio quella è per i ricchi, o comunque per chi può procurarsi i soldi per quelle porcherie là, a parte che ti distrugge il naso, ti distrugge la mucosa nasale e tante altre cose. E lo dai meno di distrugge più che altro. Ti ricordi quel film di Verdone e di Montesano, c'era anche Boldi, i due carabinieri, gli rimane un po' di roba dalla roba sequestrata, era caduta da una scatola e l'hanno fatta pippare a Bolli dicendo che era mentolo, non so, per il naso, per sturare il naso, eccolo, si è fatto un tiro, ha cominciato a urlare. Gesù. Mamma che forza, quello telefono, tanta, lì qui alla banca, cazzo. Non sto prendendo neanche le pastiglie, non ho più il raffreddore, cazzo, da tu. Un leone era diventato. Che ha chiamato il padre, la madre. Oh, si è sentito un botto allucinante qua, da lontano, qualche cipolla napoletana doveva essere. Ah, che aveva chiamato la madre e il padre, ha detto, ah papà c'è l'azienda, allora e vendila, e che tra che vendila. Perché il padre voleva che lavorasse in quell'azienda sua, capito? Non che andasse a fare il carabiniere. Poi lì c'era stato l'unico fatto tragico di un film abbastanza comico e c'era passato Bolli, ti ricordi che va a aprire all'alba il cofano di una macchina ed era invece imbottita di tritolo nel cofano. E sicuramente era la vendetta per l'operazione antidroga che avevano fatto un poco prima, il giorno prima, la notte prima. Infatti il brigadiere aveva detto, cazzo, che lì c'era leone e di mattina coglione, a chi le ha abbassato il pezzo di radroga. Via. È carino quel film, l'avevo guardato un'infinità di volte. Bene, che ora abbiamo fatto? Oh, Natale, io staccherei un po' perché sono sempre mezzo scalzo, mezzo nudo qua, mi devo coprire, dai, ne ho anche 7. Io stacco, poi boh, se ci siete o ascolto, perché poi tanto mio a una certa ora mi viene un po' di abbiocco. Senti, se si degna qualcuno di entrare, se no pazienza. Ah, a proposito, stai parlando di ascolto che non stai ascoltando, ti ricordi il ricevitorino XH adatta, no? Quando tipo radiolina era tutto impolverato, l'ho pulito minuziosamente col pennellino, quelli da trucco, tutto pulito, bello, ricaricato, e messo nell'armadio e sta bene lì. E anch'io non sto più ascoltando, mi sono rotto le scatole. Io ne ho due quasi ricevitori. C'ho quello che hai detto tu e l'altro uguale al tuo stesso. E sono tutti e due spenti. Dove l'attacco intanto? Non c'ho antenna. Però per ricevere un antennino VU, l'X30 la potevi lasciare, o cos'era, adesso non mi ricordo il modello. Potresti anche mettere una cosa minimale come l'avevo presa io da AliExpress. Ti ricordi quell'antenna lunga, un 25 cm, bianca, c'è anche nera, con i tre radialini alla base, sembrava una micro... Così, una micro X30, una cosa del genere. Poi non l'ho più usata, ce l'ho buttata da una parte, non la trovo nemmeno più, mi si era rotto un radialino che però lo puoi ordinare, li vendono separati i radiali. E ti dirò che stazionari c'avevo un 1E2, 1E1, mi ha 446. Ah, quella VU ce l'ho dalla macchina fuori dalla finestra, ma è troppo in basso, cosa... Non senti a tutti, mi... E ho capito che... Ed è quella da 1,5 metri, non è piccola, quella VU. Yeah. Ortega, e poi lì sai cos'è, nel vicolo un po' avvesseta, avete i palazzi troppo vicini, fa molto da schermo, è proprio imbottigliato lì. Poi per il resto, vabbè, ok, come detto prima, tali stacco, ci sentiamo quando capita, magari domani sera ci facciamo gli auguri prima di andare in trasferta, poi siamo qua in realtà, siamo qua, non siamo in campagna, no? Non ne vale la pena, incartato che è inverno, c'è freddo. E io mi ho preso la stufa addirittura, per il sicuro. C'ho un orecchio che mi fa male, gli ho messo del cotone, mi ho preso una pastiglia, però Cata, mi faceva un sacco male. E io ho preso un po' di fresco in moto. Stazionarie, boh. Va bene, sta lì. Qui. Ehi, allora, faccio una cosa, vado a bere. Ok, ci vediamo più tardi, ciao. Ciao Marco, credo che stavi guardando le stazionarie. Chi è avanti? Avanti, chi è? Ehi, chi è avanti? Ciao, Tatari. Miau. E come vuoi che vada? Non mi sento tanto bene, c'ho un orecchio messo male. Cazzo, ma ho messo il cotone perché mi faceva male veramente. Deve essere preso freddo. Io da lunedì crepato, ma è come se è passato un tiro addosso. Oggi sto meglio, da lunedì peso un po', sempre a letto, criccato, debole, tosse, un casino. Lo so. L'influenza, via. Quello ci ho preso freddo io, ma fregato. A me me l'ha condito il cingommino. Cingommino? Perché anche lui l'influenza aveva. Beh, domenica era casa sua, che è il compleanno suo. E praticamente lui si sentiva già male. E mi ha detto la zia, perché io non lo sapevo. Infatti la compagna ha dato una pastiglia. E poi invece mi ha crepato pure a me. E chissà se ti ha contagiato pure. Infatti. E va via la prima 40 e la compagna sua pure, stavo per male. E beh, me la posso immaginare. Meno male che a me la febbre non mi è giunta, io febbre zero. Però ero debole, era da lì. E tosse. Neanche a me la febbre mi viene tanto facilmente. La febbre ti viene quando c'è infezione. Io di più. È proprio canale di musica, non è mai nessuno, ho fischiato pure poco fa, nulla, proprio niente, zero. Poi dice, non è mai nessuno, stasera è entrato Luca, è entrato Gianfranco, Marco, e stavamo parlando fino a poco fa. No, io sono entrato poco fa perché da una commissione all'altra, uno ha chiamato mio vicino Roberto Mauroso, e quindi mi ha detto di accompagnarlo qui e là, poi quando è tutto fatto, mi ha detto qua, non trovo il borsetto, posso mettere a casa. Ma tu quando ci ti manca con il borsetto non ne avevi. Allora lo conosco anche in agenzia, se è proprio il sito, ora dare in agenzia, ora dare con la macchina, andare in agenzia e fa dire chi il borsetto. E io mi dicevo di a casa a giugno, come ti va a sentire a giugno? E insomma, di Ferrafa ho fatto tardi. Eravamo fino a 5 minuti fa, mi poi ce ne sono andati. Infatti ero ancora in ascolto io. Mi hai trovato per il rotto della cuffia e stavo ascoltando la roba al computer. Io sono dalle due invece facendo spesa una parte all'altra. Anche un po' di tutto, basta. Mi sono discato a prendere 4 cartoni di acqua, ma ne ho 5 cartoni, quindi. Io ho l'uso delle bottigliette a mezzo litro, capito? Ogni cartone, ogni pacco ne ho 12 bottigliette. Quindi ne ho 5 a voglia che ne ho. Però voglio sopra il pienone come ho sempre fatto. Adesso trovati da che è aperto, guardo, non c'è fatto per un pareggio. Così sono completo, tutto alla fine settimana. È vero, sì. Anch'io ho fatto la spesa e tutto, boh. Di fila di Don Numerino, tranquillo, guardo tutto. Aspetta, e non devo comprare più altro. sei prudente invece? È che non mi sento bene, Marazzo. Il carattere della cosa. Ma c'è tutta l'Italia così natalino, solo tu. Niente, qua si fa domani qualche cosa di buono, tra Nillo e Camerone poi. No, non c'è una giubilata che no, boh. Tanto, va bene da Nillo, facciamo un po' il forno, però un po' facciamo il sugo, cioè buono. I camerone così sano, come si fanno. Lì lo mettiamo anche coi pericoli olive, cioè buono, cavolo. Poi ho preso anche il polpo, Marco Grande, sono stato proprio con dei surgelati a Pedagnita, e si risparmia un po', ti dirò che sono stato veramente bene. Infatti, lo conosco anch'io quell'affare lì a Pedagnita dei surgelati. Vabbè, là, ti lascio che anch'io devo fare qualcosa qua. Cosa ti volevo dire? Auguroni, allora, se non ci sentiamo, mi ha fatto piacere, dai, ci sentiamo alle prossime. Ok, dai Natali, se non ci sentiamo ti mando un messaggio domani notte, gli auguroni, dai, ok. Anticipate anche a te, amore, Concetta, stammi bene, buon proseguo, io rimango un po' l'ascolto, poi me ne vado su in cucina. Ok, ciao, ciao Natali. Ciao Tony, alle prossime, tanti no, che è un canale di voci. Magari ci vuoi dire chi non è mai nessuno. E allora, tutti i fantasmi no che sono, poi se non vai mai nessuno. Sono Eddie proprio, che lo dici? Infatti, però Eddie, c'erano entrati, ero manco quattro giacci a ritirare a Milvatti, invece non entra nessuno mai. Da stasera mi così è entrato Marco, Gianfranco e Luca. E stavamo parlando fino a poco fa, adesso se ne sono andati anche loro e quindi non entrerà più nessuno. Vabbè là, ci sentiamo, ricambiati gli auguri alle prussi. Vabbè Natali, ma a me mi basta anche delle tre chiacchiere con te, va bene lo stesso. Non è che mi dispero che non ci altro nessuno, non vuoi entrare. E così, ormai due parole me le sono fatte con te e mi va bene, tutto qua. Non è che mi dispero, peggio mai che non vuole entrare. Ok Natali, ci sentiamo, ciao, stammi bene. Ciao, ciao. Antonio, ora uno due, prova Antonio, bombolo. Sì, sì. Ora. Ci sei ancora? Via. Sto notando. Guarda, guarda. Faccio contatto qua. Si passa da uno e. Da uno niente a guarda, a due. 2, 2 e mezzo. Allora o sta partendo l'isolamento della, aspetta che abbasso per quello, tutti i watt giù, tutti i watt, 2 watt, o sta partendo l'isolamento sopra oppure è il barilotto qua vicino. E controlla lo spezzone, perché può darsi che c'è sia qualche piede messo male. Vabbè, a parte che c'è il filtro in mezzo, dovrei mettere l'antenna diretta. Diretta allo strumento, non con quel filtrino del Menga. E oscilla però, è come se fosse un falso contatto che oscilla. Potrebbe essere il marilottomi, perché dentro ho trovato tutto ruggine l'altra volta. Perché non è stagnato, lo voglio stagnare appena ti ho detto l'ondata barbarica va via qua. Lo faccio tipo estate, non metto un marilotto nuovo, tutto bello pulito e con l'autoagglomerante. Capito, stagnato bene, adesso gli do un'occhiata, già c'ho anche il Dreigot disossidante, vediamo cosa ne esce. Prova a vedere. Oh, me ne sono accorto subito, dallo strumento farlocco della radio, che tanto farlocco non è, aspetta un po', ti faccio un paragone, no, ma non fa perché, vabbè, arrivo subito, ciao. Attenzione, dirci, gappa! Sì, avanti l'attenzione! Buonasera! Ebbene, la torri! Sì, rivega, là! Ma sì, via tu. E non mi è toccato nulla. Mamma mia. Guarda, hai occupato Mosaira, rimanimi. Non da lavoro, lo portatile. No, c'è lo spezzone che era, ma carità, ho dovuto cambiare. Ah, lo spezzone parlocco c'è qui. La riprova generale. Sì, adesso mi faccio. Mi ha fatto arrivare un po' di PL da internet, no? E me li faccio tutti in 213 persone, sì, in due, questi parlucchi qua, che ne ho un casotto, li butto via, mi ha dato quasi mi ripeto. Siete un controllo, buonasera. Avanti Maria. Ho detto già che mi risponde Antonio, va bene, aspetta. Dammi un controllo, fammi una cosa di altro. Chi è che mi sta chiamando? Babbo Natale, ciao Gianni Marino, un controllo di segnale, fammi la cortesia Gianni. Pro. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova. 9, 5. 9, 5? Anzi, 9, 10. Ok, grazie, a dopo, continuate, ciao Antonio. Ciao, ciao, 9, 10, Radio 5. Va benissimo, continuate, a dopo. Ciao, ecco già. Ciao Antonio, sono andato a farmi la doccia, ho sentito che Marino ha nominato a me, quindi sono entrato per quello, mi stavo ascoltando. No, c'era Natalino. E se non sento questo casino stasera? Che casino? E non senti la propagazione a bomba? Sì, appena appena la sento, poco. Mi attende un po' di niente qua per dentro. E se lo squelci come faccio io? Ma lo aprono. Provate a vedere, va. Prova a vedere Natalino. Insomma. C'è il cane che sta mangiando, ma... Beh, ho messo lo squelci. Dice, no, no. Forse sono riuscito. Perché se lo metto troppo basso me lo apro, ma l'importante è che me lo aprono sempre. Se lo metto troppo basso mi apro lo squelci, cazzo, sono cortissimi. Questa oggi sono riuscita in morta, arriva in chivi, gatta, mi necessita chi si è imbecille dallo stocco, ma veramente, ma niente non sa guidare, cioè, la gente veramente, no, boh, bisogna farmi fare un bel ripassino, bisogna farle, ma è male che sono, me l'ho vista, mi sono bloccato subito. Avanti, avanti sul 10. Chi è avanti? Chi è? Chi è avanti? Vai, vai! Ha capito, dai! Ha capito, bello bene! Ciao, ciao! Continuate! Ha capito, bello bene! Ehi, è Gianni, è Gianni! Oh, dimmi! Ho detto Gianni! Gianni, ho sentito poco fa, l'ho sentito! Gappa, gappa! Due. Il computer sono. Sono più sperimentati. Allora. Che parola hai visto? Che così? Il progetto di Max, cioè, quello che l'ha installata, dice che è una cosa micidiale. Che cosa? La grazione di Max. Dice che è fuori dal normale. Perché? Perché ha un livello di trasmissione, di lontananza, di ricezione che non ha nessuna antenna. Anche in propagazione, quello che non sentiamo noi adesso, con l'antenna dice che lo sente e trasmette pure. Ma... ce ne sono dei video, una marea per me. No, è fatto con gli strumenti. Sì, ho visto anche quelli con gli strumenti. Certo che se uno fa le comparazioni con gli strumenti, allora può dire, certo, quelle di più, quelle di meno. Sì, no, proprio la comparazione è fatta proprio con gli strumenti, è fatta proprio con l'oscilloscopio, cioè con le cose attaccate. Quindi non penso che abbia detto cagate questo, no? Ne ha tolto la 5 ottavi e ci ha messo quella lì. Sì, una marea ce n'è di video da Gitto. Prove differenze con la Game Master e tante altre. Con la Game Master c'è molta differenza. No. Guardate il video e poi ce ne renderai conto della differenza. te lo mando se non lo trovi, e ti faccio vedere la differenza, cioè quasi nulla. Sì, già non è quasi nulla, cioè, c'è un bel punto alto, cioè. C'è un punto un po', c'è una bella differenza, cioè. C'è un punto adesso in più. Ma secondo te per il costo di entrambe le antenne è tanto quello? Vabbè, forse mi parli di durata diverso. Io sto parlando della differenza di costo di entrambe le antenne, Antu. Cioè, se con una arrivi 7 e l'altra arrivi 7 e mezzo, solo che con una spendi 70 e nell'altra ne spendi 200, vedi tu di farti i conti. Sì, sì, vabbè. Va bene, dai, che me l'ho chiamato a mangiare. Sì, sì, sì. Ho visto anche tutte le differenze, ho visto. Vabbè. Ora, invece che la papà qua, va a mangiare ravioli oggi, stavolta mangiamo ravioli. No, bravo Antonio. No, io ho la fine. Panino. Andava. Ah, chiude. Oggi è l'ultimo giorno, poi chiude e riprendono a gennaio, è quella pizzeria Lanzu, quella che ti avevo dato il numero. La nuova gestione mi ha detto riprenderà metà gennaio, fine gennaio. Oggi è l'ultimo giorno di questa. Sta ritirando? Hanno venduto, mi ha detto. Che, però mi ha detto stiamo insegnando, anche se loro sono già esperti, però come facciamo noi, come lavoriamo noi, così non cambierà nulla dopo. Qualcosa c'è sempre nel mondo. Non è uguale. Vabbè. Ma il gruppo è malito me. Io ho capito chi ero, conosco quel Mario, pure lui è grandetto per me. No, non lo so, non lo conosco. Sì, non lo so io, l'ho visto un sacco di volte. Perché prima andava a prenderci la pizza lì. E cosa, Ivan? Come ti dice Ivan si chiama, il suo di Santa Maria di Pisa? Quella vicino al tabacchino, che adesso hai detto che c'è un panificio. Danilo è al corso, in via Baldetta, capito, in via Baldetta, sì, i pini, se ne vuoi fare poco di cose, per portare i pini non va nulla, lascia perdere, ma me lo ripeto già c'è Iara. Ah, sì. Scappa. Va bene, va. Vado, comunque io sto lavorando in via Napoli, pure, da Spigolo, si mangia bene lì. Ok, dai, vado a mangiare. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.